Vabbè, benvenuti a tutti e tutte. Non so se avete partecipato già l'anno scorso, questa è la seconda edizione del Festival di Meltemi che teniamo qui a ZAM. E sono tre giornate che dedichiamo a presentazioni, libri, serate musicali, cibo e parlare di tante cose interessanti. E ora c'è la presentazione del libro Antiterrorismo, conflitto sociale, fine della storia in Italia. Di Elio Catania e niente, siete tutti benvenuti e anche per le prossime giornate che ci saranno sabato e domenica. Grazie. Bene. Si sente, funziona. Oh. No, ma in realtà è finto. Solo per la radio. No, devi usare il microfono per la registrazione per la trasmissione. Ah. Ogni tanto però potresti. No, vabbè, scherzo. Allora. Non c'è il chairman, quindi lo faccio io. Allora, siamo qui a presentare il libro dell'ex direttore dell'ATM Elio Catania. Che è mio omonimo, però. È vero, tristemente vero. Dal titolo Antiterrorismo, conflitti sociali e fine della storia in Italia. Partiamo partirei per introdurre il libro dal titolo che chiama in causa il concetto di antiterrorismo, che è una sorta di evergreen del dibattito pubblico negli ultimi decenni. Anzi, potremmo dire che l'Italia, da questo punto di vista, come molto spesso accade, anticipa tendenze che si sarebbero poi sviluppate a livello più globale. Per cui dopo l'11 settembre la chiave dell'antiterrorismo, questa definizione apparentemente neutra, ma che in realtà dà per scontata una classificazione di un certo tipo, in Italia era già stata sperimentata nei decenni precedenti. E poi il sottotitolo ci parla di conflitti sociali e fine della storia. Ecco, perché fine della storia? Il concetto di fine della storia fa capo a uno dei libri più citati e meno letti degli ultimi decenni, cioè La fine della storia di un tale Francis Fukuyama, che è un libro che nessuno ha mai letto, anch'io non l'ho mai letto, penso che neanche tu l'abbia letto. Ah, l'hai letto? Sei il primo. Sì, ma per scrivere il libro per scrupolo, esatto. Ecco, diciamo che l'altro contende questo titolo di libro più citato e meno letto con Lo scontro delle civiltà di Samuel Huntington, altro libro mega citato ma che nessuno ha letto. Io lì ci avevo provato, ma è di una tale noia, di una tale scontatezza, che mi ero poi arreso dopo qualche decina di pagine. Immagino che quello di Fukuyama o Fukuyama fosse una cosa del genere. Ecco, qual era la tesi del libro di Fukuyama? Che in qualche modo la storia era finita. Si appellava a un mal digerito hegelismo, o meglio ostentava il fatto di essere uno studioso di un personaggio che si chiamava Kojève, che oltre a essere il nipote di Kandinsky aveva tenuto un mitico seminario su Hegel fra le due guerre, un seminario frequentato da Lacan, Barthes, Aron, insomma tutta la scena della cultura francese fra le due guerre. E da Kojève avrebbe ricavato Fukuyama o Fukuyama l'idea della fine della storia. Che cos'era la fine della storia? Era che con la caduta dell'Unione Sovietica la dimensione conflittuale in cui differenti visioni del mondo si confrontavano sarebbe venuta meno, in quanto si sarebbe affermato l'unico modo razionale di organizzare l'economia e le relazioni sociali, cioè l'idea dell'accoppiata economia capitalistica più liberal democrazia, visti fra l'altro come due dimensioni che si spalleggiavano l'un l'altra, necessarie l'una all'altra, che non potevano andare l'una senza l'altra, rappresentavano l'orizzonte verso cui sarebbe andato l'intero pianeta. Per cui l'idea della fine della storia non era che la storia era proprio finita, ma che si era, potremmo dire, capito come andava a finire, cioè il finale era scontato. Sì, certo, c'è la Cina, c'è una serie di dittature, via dicendo, però insomma col passare del tempo la forza congiunta di liberal democrazia più economia di mercato avrebbe creato, diciamo, l'organizzazione ottimale delle società. Ecco, sappiamo che non è andata in questo modo. Ecco, in questi giorni, diciamo, di prendere la parola in pubblico, così come scrivere, non è una cosa facile, nel senso che da qualche mese a questa parte gli eventi sono precipitati, per cui noi ogni giorno, quando una volta si sarebbe detto andiamo ad acquistare il giornale, oggi apriamo il computer, non abbiamo idea di quello che potremmo vedere. Per cui dopo una serie di anni in cui il mondo era in qualche modo prevedibile, le dinamiche erano prevedibili, viviamo questa sorta di ritorno della storia, con difficoltà a stare dietro agli eventi. Insomma, chi di noi avrebbe mai pensato, immagino che qua tutti siamo ostili alla NATO, che associavamo agli Stati Uniti, strumento del dominio degli Stati Uniti. Cioè, chi poteva immaginare che a gettare nel cestino la NATO sarebbero stati gli Stati Uniti stessi? Per dire, io qualche tempo fa avevo scritto per una rivista francese, Multitude, un articolo per un numero sulla guerra, l'ho consegnato, cos'era, novembre-dicembre, ho vergogna che mi arrivi a casa il numero, perché immagino che le cose che ho scritto sono delle cose completamente fuori dal mondo, cioè che lette oggi possono suonare quasi ridicole. Ecco, però questa accelerazione del tempo storico, questa accelerazione degli eventi, ci pone di fronte al fatto di ridefinire una serie di coordinate e probabilmente di riaprire alcuni file, di riaprire alcuni dibattiti. Ecco, voi mi direte, questo è un libro storico, è un libro di taglio storiografico, per cui analizza un singolo passaggio, e però oltre ad avere questo carattere storiografico, mi sembra che ponga un tema politico di carattere più generale, su cui anche alla luce degli ultimi eventi in cui vi spoilerò quale sarà il senso del mio discorso, in cui la liberal democrazia ha fatto completa bancarotta, per cui oggi possiamo dire che il discorso liberal democratico, le formule utilizzate oggi sono assolutamente non più spendibili, ci appaiono in tutta la loro vacuità. La il diritto internazionale, chi oggi lo può prendere sul serio? L'idea dell'autodeterminazione nazionale, chi oggi lo può prendere sul serio? L'idea che esiste un Occidente che tutto sommato fra derapate, limiti, contraddizioni, comunque alcuni capisaldi continuava a difenderli, oggi è un argomento totalmente impresentabile. Cioè, che ne so, che differenza c'è fra gli Stati Uniti e la Russia di Putin di oggi? Non differenze così significative come si potrebbe pensare. Ecco, detto questo, torno a questo libro. Diciamo così, liquido un po' la questione storiografica. Ecco, perché mi sembra questo libro, che ho letto con, devo dire, con grande piacere, e anche scritto bene, anche con frasi forse un po' troppo lunghe. Sì, il punto e virgola va usato con più, più parsimonia. Più parsimonia. Ecco, detto questo, mi sembra, adesso io non sono uno storico di mestiere, anche se anticamente lo ero. Ecco, l'elemento che mi sembra più interessante è che è una ricostruzione in cui due dimensioni che solitamente sono state sempre considerate un po' separate, cioè la ricostruzione dei fenomeni di militanza radicale e la vicenda della lotta armata di sinistra, che di solito è ricostruita o dalla memorialistica, cioè un'abbondantissima memorialistica, o da una serie di studi, ecco, lasciando da parte la letteratura quella più divertente, cioè quella di tipo complottista, che è una letteratura che dà un grandissimo divertimento a leggerla. Per le ipotesi strampalate dal fatto che Moro non è mai stato rapito, tutte le cose su gli affittuari delle case, gli amministratori di condominio, la doppiezza di Moretti e via dicendo. Ecco, lasciando perdere questa robaccia, diciamo così, di matrice comunista intesa come PC. Ecco, lasciando perdere questa spazzatura, anche le opere fatte bene tendenzialmente guardano a una sola dimensione, per cui lo sviluppo dei gruppi armati, le azioni, le fratture e via dicendo. Poi c'è una letteratura più ridotta sulle forze dell'ordine, sulla legislazione d'emergenza. Ecco, difficilmente le due cose sono messe in relazione. Ecco, forse l'unico, appunto, non sono uno specialista, quindi ci saranno senz'altro degli altri, sono le cose di Conti sulla strage di Piazza Fontana. Secondo me lì c'era questa duplice dimensione di storia politica da una parte e dall'altra di storia degli apparati repressivi. Quindi mi sembra questo, se dovessi dire storiograficamente, il contributo più interessante, di vedere queste due dimensioni come interagiscono, come rispondono l'una all'altra, come si determini poi un modello per la repressione delle lotte sociali. Ecco, l'altro elemento su cui mi interesserebbe portare l'attenzione e questo ci riporta alla questione dell'oggi, è quello quel processo che è avvenuto a sinistra di evacuazione della dimensione della violenza dall'azione politica. Per cui se volessi metterla in uno slogan, direi che alle chiacchiere socialdemocratiche su, o liberaldemocratiche sui diritti, la democrazia, la democrazia deliberativa, insomma tutte queste cose, gli unici che ci hanno creduto sono tendenzialmente quelli della sinistra istituzionale. La destra o il centro non ci ha mai creduto, ha sempre fatto un uso di tipo strumentale. Ecco qua mentre la sinistra, e sto parlando della sinistra istituzionale, ha creduto in queste storie del fatto che la politica è la ricerca dell'accordo, è il contratto sociale, è la condivisione dei valori e quant'altro. Ecco, in realtà la politica è qualcos'altro. C'è una famosa massima di Clausewitz che recita che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Ecco, per alcuni si poneva un problema. Non era possibile ribaltare questa massima e vedere nella politica la continuazione della guerra con altri mezzi. Ecco, verificare la plausibilità di questa ipotesi è ad esempio Foucault, Michel Foucault, in un corso mi pare sia del 74, ma non ci giuro sulla data, che si intitola Bisogna difendere la società, in cui recupera tutta una tradizione storiografica su cui non mi dilungo, Boulanvier, insomma tutta una serie di autori minori, che perché Foucault li trova interessanti, perché a fronte del modello della sovranità, quindi del contratto sociale, della delega alla sovranità dei propri diritti e quant'altro, si contrapponeva in questi autori l'idea che la società in realtà era il prodotto di una guerra in cui c'erano dei dominati e dei dominanti, e quindi si spegneva la battaglia, ma si spegneva solo in superficie, mentre in realtà il contesto era sempre guerreggiato. Ecco, potremmo dire che quelli che stanno dall'altra parte l'hanno sempre capita benissimo questa cosa. Andiamo sull'attualità. Trump, una volta diventato presidente, cosa fa? L'amnistia per quelli che hanno assaltato il Campidoglio. Quindi di tutte le chiacchiere liberal-democratiche, i diritti, la certezza della pena, lo stato di diritto, se ne frega, quella è gente sua. Quindi la difende. Viceversa sappiamo Trump cosa sta facendo rispetto a quelli che non stanno dalla sua parte. Potremmo dire che lui lo fa con meno infingimenti di figure precedenti, ma prendiamo e veniamo un po' al livello storico, il rapporto che ha avuto l'MSI con i gruppi armati della destra, di assoluta copertura, di assoluta complicità, fino a quando con la questione dell'agente marino la roba diventa insostenibile, ma subito dopo riprendono a coprirne la latitanza, a aiutarli, oppure prendiamo un caso recente di cui poco si è parlato rispetto a quanto se ne doveva parlare, cioè del terrorismo leghista. Il tipo di Macerata, come si chiamava? Traini era un militante della Lega, l'avevano pure presentato alle elezioni. Ecco, nel momento in cui Traini spara su quei malcapitati, qual è diciamo la reazione dei media mainstream. C'è una ricerca di miei colleghi in Bicocca molto interessante su come la stampa italiana vada a rubricare la cosa non come atto di terrorismo, come poteva sembrare più ovvio, ma la legge in termini patologizzanti. Era matto, era un instabile, l'avevano maltrattato da bambino, era presentata in termini patologizzanti che la depoliticizzavano immediatamente. Ma la cosa interessante è la reazione di Salvini. Salvini cosa dice? È certo che ci saranno cose così finché ci saranno tutti questi migranti. Cioè, Salvini copre il suo uomo e rilancia, va all'attacco. Ecco, pensiamo quando ci sono delle Tesla distrutte da qualche parte, cosa diranno i tipi del PD o diciamo così gli eredi della canaglia comunista? Diranno: ah, mio Dio, no, perché prendiamo le distanze. Ecco, mi fermerei qua, forse non sono stato chiaro, forse sì, non so, però il tema che mi sembra interessante è: abbiamo una sinistra che ha concepito il riformismo come una questione semplicemente di negoziazione, come una questione di accordi, come una questione di consenso. In realtà il riformismo quando è che ha funzionato? Il riformismo, ecco, ormai giunto a una certa età non ho più grandi velleità rivoluzionarie, confesso. Sarei già contento di un certo riformismo. Ma il riformismo di che cos'è funzione alla fine? Il riformismo è funzione della guerra civile, del fatto che potenzialmente ci sia una situazione di guerra civile. Fino a quando, se voi fate caso, il riformismo quando ha funzionato c'era sullo sfondo, Kant direbbe come condizione di possibilità, una questione di guerra civile, una questione di insorgenza. Il riformismo può funzionare nel momento in cui il politico ha questa capacità di fare il gioco, di dire: oh, guarda che qua finisce male se non cambiamo qualcosa, guarda che se non ci sono io a mediare quale cose rischiano di precipitare. Ecco, quindi in definitiva, se dovessi senz'altro abbiamo la mancanza di una classe politica, abbiamo a che fare con, insomma, degli analfabeti, con pensiamo a Fassino che rubava i profumi, cioè, da gente così non ci si può aspettare granché. Ma se si vuole effettivamente ricominciare a pensare di mettere in moto le cose, bisogna pensare che i due livelli si devono articolare. Allora, grazie. Grazie Massimiliano Guareschi, perché poi non ti sei presentato, ma ti presento io allora. Sì. Che appunto insegna tra l'altro sociologia appunto all'università di Bicocca. E sono anche contento, adesso sono un po' di presentazioni che sto facendo, sono anche contento quando, diciamo, non discuto di questo libro solo con degli storici. Mi sembra anche utile, perché poi fa emergere anche tutta un'altra serie magari di dimensioni a cui anch'io magari non avevo riflettuto subito. Ma allora, diciamo, dal tuo discorso sono emersi tanti spunti, per la verità, e me ne sono segnati alcuni. Magari non risponderò proprio a tutti, ma provo un po' a così dialogare con alcune cose che hai detto. Prima appunto di magari rispondere, faccio giusto una premessa introduttiva sul libro, che come hai anche anticipato tu, è appunto una storia, quindi è un testo di base storico, dove c'è sicuramente anche una teoria politica, però come è inevitabile che sia, tra l'altro, in ogni lavoro storiografico, però è un libro di storia appunto dell'antiterrorismo, laddove per antiterrorismo si possono intendere due sostanzialmente significati. L'antiterrorismo in Italia ha rappresentato, da un lato, una stagione di politiche di ordine pubblico, una stagione di storia anche legislativa, anche di conflitto sociale, o meglio di gestione del conflitto sociale da parte dello Stato, che ha anche una sua datazione ben specifica, nel senso che ci rivela anche molto della natura di questo antiterrorismo, ovvero la emergenza antiterrorista inizia in Italia non come potremmo magari pensare o ipotizzare dalle bombe di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69, ma che inaugura invece il quinquennio nero della strategia della tensione, dello stragismo di Stato e neofascista, ma invece inizia dalla metà degli anni 70, in particolare dal 74, quando le Brigate Rosse, che sono all'epoca il gruppo armato, che non l'unico, ma il gruppo armato che si afferma, si sta affermando principalmente sulla scena delle attenzioni dei ministeri, di apparati di intelligence, dei nascenti nuclei speciali di polizia e carabinieri, sostanzialmente avvia quello che poi chiama anche nella sua teoria l'attacco al cuore dello Stato, con sostanzialmente un salto di qualità con il sequestro del giudice Mario Sossi, che avviene appunto dall'aprile al giugno del 74 a Genova, e che rappresenta in qualche modo il primo evento che porta alla emanazione delle prime leggi speciali, che porta anche alla istituzione dei primi nuclei speciali antiterrorismo, in particolare quelli dei carabinieri guidati da Carlo Alberto Dalla Chiesa, e che poi si svilupperà nel corso della seconda metà del decennio, fino a evolvere e a diventare anche capillare d'emergenza nazionale vera e propria, con poi le leggi speciali più note, più famose, anche quelle che poi ci siamo portati dietro per lungo tempo fino a oggi, dopo il sequestro Moro, quindi dopo il marzo del 78. Ma l'antiterrorismo in qualche modo significa anche qualcosa di più ampio, nel senso che sono sì le leggi, sono sì le condizioni di emergenza che lo Stato e la classe dirigente in qualche modo impongono in nome della lotta appunto al terrorismo, che però ha una matrice politica ben specifica nell'idea dei legislatori, cioè quello che appunto sta a sinistra, ma l'antiterrorismo di cui parlo io è anche un qualcosa di più ampio, perché è anche quello che è anche come diciamo viene concepito e sviluppato all'interno della storia nazionale, per cui non si tratta soltanto appunto dell'azione di contrasto a chi effettivamente commette dal punto di vista della legge, della magistratura, del codice penale, atti di terrorismo, ma anche tutto quel contesto culturale, sociale, politico che dal punto di vista dello Stato in qualche modo e della classe politica prepara o agevola o alimenta la svolta terroristica o i terroristi veri e propri. Questo ovviamente è un concetto molto più ampio, che quindi coinvolge anche e riguarda anche tutta quella dimensione più ampia del conflitto sociale e delle sue forme considerate legittime o illegittime. Si intreccia anche inevitabilmente con la storia della violenza politica, sia quella organizzata sia quella spontanea, in qualche modo, che fa parte proprio anche di una lunga storia delle classi sociali subalterne soprattutto. E in qualche modo si intreccia anche con le tradizioni di lungo periodo dello Stato italiano, che quando fonda le leggi, quando crea, emana le leggi speciali vere e proprie dalla metà degli anni 70, ha delle basi, non parte da zero, ha una storia che è la storia sostanzialmente delle leggi anche repressive nei confronti appunto dei movimenti sociali e di tutte quelle forme di insubordinazione e rivolta sociale che caratterizzano la storia d'Italia fin dagli albori, sostanzialmente fin dall'unità nazionale. che attraversa e si arricchisce, tra virgolette, si articola maggiormente sotto il ventennio fascista, che fu una sostanzialmente un periodo di grande innovazione poliziesca. Benito Mussolini a livello storico è considerato un grande innovatore di polizia, e quegli strumenti e quei corpi di sicurezza di cui sotto il fascismo lo Stato italiano si dota, beh, la Repubblica li manterrà per lungo tempo intatti e li svilupperà, anzi poi appunto con l'emergenza antiterrorismo dalla metà degli anni 70 in avanti. E io un po' mi concentro, ecco, su questo, quindi cerco di studiare la genesi, lo sviluppo e poi anche le conseguenze di lungo periodo che ci portiamo dietro tutt'oggi dell'antiterrorismo inteso appunto come in questa accezione un po' più ampia. Qua mi collego al primo punto che hai un po' trattato parlando. Ti ringrazio che hai spiegato tu il concetto di fine della storia, perché ammetto che è sempre il punto. Sì, però è che non è proprio chiarissimo questo tipo. Sono d'accordo che non è proprio una lettura piacevole, ecco. Però ecco, è anche un po' un concetto non immediato, non sicuramente semplice, però mi è sembrato corretto tenerlo dentro, perché in qualche modo io credo che la fine della storia è un fenomeno globale che riguarda un po' tutta la cultura politica occidentale, quantomeno. Che poi però è diventata abbastanza pervasiva anche nel resto del mondo. Le conseguenze dell'antiterrorismo in Italia si intrecciano con la declinazione nazionale della fine della storia, cioè le conseguenze della lunga stagione antiterrorista si intrecciano in qualche modo con quell'espulsione del conflitto sociale dalla sfera della legittimità dell'azione politica, ma anche con sostanzialmente la eliminazione, per dirla così in maniera semplice, di tutte le alternative possibili politiche, culturali, economiche alla liberal democrazia e all'economia di mercato di stampo liberale e capitalistico. È interessante però, ecco, una cosa che tu dicevi, cioè il fatto che questa ovviamente è la fine della storia, adesso lo possiamo ampiamente dire, si è rivelata, e non da oggi ma almeno dall'attacco, diciamo, dall'attentato dell'11 settembre 2001, no? Dall'attentato delle Torri Gemelle, e poi con l'inizio della guerra globale al terrore cosiddetta, si è rivelata, insomma, in tutta la sua ingenuità o malafede, ecco, o livello di propaganda, non lo so, possiamo definirlo in tanti modi. Però questo sicuramente come dire, è una cosa che emerge anche nel momento in cui noi ragioniamo sul fatto che le liberal democrazie avevano, già prima della fine della storia dichiarata, avevano creato un mondo tutt'altro che ideale e che perfetto, e che anzi in qualche modo, e qua si intreccia molto, ecco, anche quello che racconto in qualche modo in questa storia, il fatto che il livello, diciamo, liberal democratico, le liberal democrazie potevano perfettamente e hanno sempre convissuto con pratiche autoritarie sia in patria che all'estero, in particolare le liberal democrazie coloniali, Francia e Regno Unito, ma non soltanto, nel senso che nel momento in cui avevano in qualche modo anche potevano essere considerate campioni, modelli di democrazia in patria, avevano comunque costruito anche i regimi più oppressivi nei loro domini coloniali. Allo stesso modo in Italia la liberal democrazia repubblicana ha mantenuto intatti degli elementi autoritari propri del regime autoritario precedente, e le gestioni dell'emergenza in Italia, che iniziano già nel dopoguerra con l'emergenza del banditismo in Sicilia, si sviluppano e vanno avanti ad esempio con il cosiddetto terrorismo altoatesino di marca appunto indipendentista e autonoma tra gli anni 50 e gli anni 60 e poi anche nei decenni successivi, e poi in particolare con l'emergenza del conflitto sociale negli anni 70, beh, mantengono prassi e strumenti legislativi, oltre che corpi anche speciali che si muovono al di fuori in qualche modo di quello che dovrebbe essere lo Stato di diritto democratico. E l'immagine più orribile, no? In qualche modo la pratica più orribile che dovrebbe essere espulsa dalle democrazie, che pure tutti i corpi speciali democratici hanno sempre praticato, è quella della tortura, ad esempio. Prassi tutt'altro che eccezionale negli anni della lotta, della cosiddetta lotta al terrorismo, prassi applicata su decine e centinaia di casi, sia nella sua forma della tortura fisica, quindi il singolo diciamo militante o il singolo tra virgolette terrorista sequestrato, fatto sparire forzatamente e seviziato brutalmente, torturato, ma sia anche nelle forme della tortura diciamo non diretta, che è quella insomma dei regimi detentivi speciali, come ad esempio è l'attuale 41 bis, tanto per capirci, che ha la sua origine proprio nella legislazione speciale antiterrorista del dopo sequestro Moro. Ma la tortura è un caso, appunto, è l'emblema, ma in qualche modo sono diverse queste prassi, queste forme, e anche la stessa gestione dell'emergenza antiterrorista spesso ha cozzato anche con le procedure normali di una normale liberal democrazia. Il grosso delle leggi speciali sono state promulgate sia come decreti legge, quindi senza passare appunto dal dibattito parlamentare, e la cui approvazione successiva è molto facilitata rispetto al normale iter di legge, ma ad esempio spesso anche la stessa istituzione dei corpi speciali, come quelli presieduti appunto da dalla Chiesa per quanto riguarda i carabinieri, sono spesso stati istituiti con delle semplici circolari del Ministero degli Interni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Addirittura corpo speciale al cui capo viene posto dalla Chiesa dopo il sequestro Moro viene istituito con una circolare della Presidenza del Consiglio e poi del ministro Rognoni dopo la fine del sequestro Moro. E il Parlamento non saprà i contenuti di questa circolare per oltre un anno. Allo stesso modo l'istituzione delle cosiddette squadrette speciali specializzate nella tortura dei detenuti e dei militanti della lotta armata all'inizio degli anni Ottanta è una prassi che è un'istituzionalizzazione che non passa dal Parlamento, ma passa ovviamente da circolari e da decisioni autonome del governo. E allo stesso modo la prassi e le modalità in cui questi corpi speciali si mossero e si muovevano erano assolutamente fuori da quelle che erano le gerarchie istituzionali previste dalla legge. Questo è utile perché in qualche modo, ecco, si collega un po' a quello che tu dicevi, cioè il fatto che a un certo punto la liberal democrazia è superata da se stessa, è superata dagli stessi mostri che ha creato. Questo vale per gli Stati Uniti trumpiani, vale per l'attualità, per l'attuale ordine mondiale o disordine mondiale, ma vale anche per l'Italia che esce dall'emergenza antiterrorista e vede collassare il proprio sistema politico, partitico, istituzionale. Quello che avviene nel 1992, anno in cui io concludo il libro, e che ha il suo evento più spettacolare, più mediatico che sostanziale in realtà, in Tangentopoli, nell'inchiesta Mani Pulite, è però il collasso di fatto di una democrazia dove dove era avvenuta una sorta di disarticolazione dei meccanismi decisionali, dove la moltiplicazione dei centri di potere, spesso in contrasto tra loro, aveva portato a un certo punto anche al collasso di un determinato ordinamento politico, e quello è anche, non solo, ma anche un prodotto della stagione antiterrorista. Prodotto della stagione antiterrorista è anche l'altra cosa a cui tu ti riferivi, ovvero l'espulsione del conflitto sociale e più che della dimensione della violenza, che sicuramente è un fatto che avviene, ma della dimensione della rottura rivoluzionaria, che è qualcosa di più ampio della sola prassi violenta, è un qualcosa che avviene all'interno della cultura politica della sinistra, in particolare anche a causa delle scelte che fa il principale partito della sinistra italiana, che è il Partito Comunista Italiano, che se per lungo tempo, pur avendo sempre mantenuto, diciamo, un atteggiamento di compromesso, di ricerca di compromesso con gli equilibri della neonata Repubblica fin sostanzialmente da dopo, dal dopoguerra, quindi fin da subito, ma è negli anni 70 che avvia quel tentativo di in qualche modo consociazione al potere, che è il compromesso storico, che poi in realtà si concretizza nella sua formula più conservatrice della solidarietà nazionale, cioè del sostegno ai governi democristiani, ai governi Andreotti in particolare, e nel sostegno non soltanto alle politiche di austerity, quindi alle politiche economiche più conservatrici, ma anche al sostegno alle politiche di sicurezza e alla legislazione speciale. Sono gli anni in cui il PC accetta di mettere a disposizione il proprio enorme apparato politico, culturale, sociale. PC era di fatto una società nella società, sicuramente, e molto radicato nella classe operaia, nelle classi sociali storicamente antagoniste ai poteri costituiti, e il PC a un certo punto accetta di, quando termina, diciamo, il pericolo per se stesso di essere messo fuori legge e di subire un colpo di Stato autoritario che ne limitasse l'agibilità politica, beh, a un certo punto accetta invece di entrare a far parte, di consociarsi in qualche modo al potere, e si avvia parallelamente al compromesso storico e alla solidarietà nazionale anche quella dottrina che Ugo Pecchioli, che è stato dirigente del PC, il cosiddetto ministro ombra del Partito Comunista Italiano, chiama collaborazione democratica con lo Stato, cioè il mettere a disposizione il proprio apparato, particolarmente radicato nelle fabbriche e nella classe operaia, che era poi il ceto sociale dove l'estremismo politico e anche le prassi di lotta armata si sono maggiormente sviluppate, beh, metterlo a disposizione del contrasto a questi fenomeni, non soltanto all'estremismo, ma non soltanto al terrorismo strettamente inteso, ma anche a quello, a tutto ciò che era considerato l'estremismo politico. E per fare ciò deve operare anche una trasformazione antropologica quasi della classe operaia, e portare i ceti operai e i ceti subalterni a superare quella storica diffidenza, se non ostilità, alle forze dell'ordine, alla collaborazione con lo Stato, con la magistratura, che invece da sempre questi avevano in qualche modo avuto come parte della propria cultura sociale prima che politica. E inevitabilmente questo alla fine dell'emergenza antiterrorista ha delle conseguenze soprattutto anche all'interno di quella cultura politica di sinistra, della sinistra quantomeno maggioritaria, che porta a un certo punto, come dicevi tu, a essere più realisti del re, cioè a sostenere i principi liberal-democratici anche quando gli stessi liberal-democratici e lo stesso blocco moderato in Italia li aveva a un certo punto e li ha a un certo punto sacrificati. Ecco, qua ho provato un po' a rispondere ai vari spunti, insomma, collegandoli anche un po' al lavoro che ho fatto nel libro. Spero, insomma, di essere stato il più chiaro possibile. Vediamo, c'è qualche domanda, qualche intervento? Curiosità. Un momento di riflessione. Dopo lo compro. Volevi vedere l'indice. Esatto. Vedere cos'è saltato. Esatto. Io volevo dire una cosa, sì, però non so se ho una domanda per voi, sinceramente. Vabbè, però non è importante cosa a proposito. Sono qua, faccio questo qui. Il fatto che intervengo anche a questa seconda presentazione vuol dire che gli argomenti trattati stasera sono molto interessanti e mi hanno stimolato, e grazie davvero. Allora, io ho una visione un po' particolare su questa tematica qui. Innanzitutto, alla luce del fatto che al 70° anniversario della liberazione nazifascista in Italia c'è stata la possibilità di poter andare a investigare i fascicoli, il famoso fascicolo D8 chiamato Sovversivi d'Italia, dove attraverso lo studio di questi fascicoli si scopre che cambiano i loghi, da Polizia Regia, Ovra, Digos, ma le metodologie non cambiano. Questo per dire che, malgrado i cambiamenti politici, malgrado le attitudini politiche, comunque l'attitudine repressiva non è mai cambiata, ha cambiato solamente la gestione. E questo è un dato di fatto, anche alla luce di chi in quegli anni governava e sembrava che in qualche modo stesse tutelando anche quelli che furono i perseguitati politici, perché molti ricordano l'AMPI, però pochi ricordano l'AMPI con doppia P, che è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani, dove molti che avevano subito violenze durante il fascismo presentavano un resoconto delle violenze che avevano subito per poter essere magari reintegrati nel lavoro. Penso all'operazione Osonia, che arrestò più di 5.000 persone all'arsenale di Taranto, penso a tante altre realtà di fabbrica dove venivano in qualche modo detenuti durante il fascismo veri e propri gruppi di operai e operaie, e a questo resoconto veniva dimostrato che durante il fascismo avevano subito indistintamente delle violenze. Il partito all'epoca, il potere, la Democrazia Cristiana, riuscì ad omettere questi documenti, facendo non risultare quegli arresti, per cui già c'era una volontà a chi in qualche maniera si presentava sovversivo allo Stato per poterlo perseguitare. Per cui tutto quello che poi viene nella questione della lotta armata, che di questo si parla, che è completamente diverso dal concetto di terrorismo, è stata applicata poi da altri uffici cambiando semplicemente di luogo. Ora, io penso che fondamentale è stata proprio la cosa che tu raccontavi, da alcune scelte, tra virgolette, scellerate dei partiti, perché in quella fase lì non muore la lotta armata perché, a detta di molti che hanno partecipato, in qualche modo è stata un'esperienza fallimentare. Muore perché lo Stato colpisce tutta quella legittimità e quella sostenibilità che aveva la lotta armata, come era l'autonomia operaia. Infatti il famoso Teorio Macalogero cosa fa? Va a colpire l'autonomia operaia perché dava sostegno a certe forme di lotta. Altri esempi di questo tipo qui si sono verificati in Scaleria con ETA, si sono verificati in Catalogna con Terra Lliura, dove per poter colpire delle frange estreme hanno dovuto comunque attaccare in primis tutta quella parte di sostegno politico che avevano, perché non è una fase talmente esagerata, è una forma di espressione che prende forma in un contesto ben definito dove c'è una coscienza di classe, dove c'è un aspetto molto organizzato, a partire dalle fabbriche, passando dalle scuole e da vari aspetti del mondo del lavoro e non solo nel nostro paese. A questo poi ci mettiamo anche come anche i sindacati hanno appoggiato certe scelte scellerate, perché se ricordiamo Luciano Lama è stato il primo che decide che il sindacato riottoso di rivolta contro lo Stato si dovesse trasformare nel sindacato che deve andare a trovare il compromesso con lo Stato, per cui c'è tutta una linea che al di là della scelta politica comunque non andava tanto a intaccare la forma repressiva che c'era, che rimane ancora oggi. È vero quello che si parlava prima dell'articolo il 41 bis, che è nato per un problema e al giorno d'oggi ce lo becchiamo anche noi. Questo è a testimonianza del fatto che comunque quella modalità da chi governa è vincente, tra virgolette, e continua a prendere piede anche i giorni nostri. Per cui io penso che il fatto che l'antiterrorismo intrapreso dallo Stato non è tanto da chi esercita azioni al di là di quello che è consentito, ma il fatto che quando un'azione politica diventa molto più contundente c'è da radicalizzarla alla base, da dove si costruiscono gli ambiti di sostegno a tutto questo. Per cui in questa discussione qui io non ho una domanda ben precisa, però vorrei magari parlarne anche con voi su questo aspetto qui, perché dal mio punto di vista, se non muore l'autonomia operaia, probabilmente continua anche l'esperienza della lotta armata, necessario o no, fallimentare o no, discutibile o no, però il pilastro che viene a mancare è proprio il sostegno. E facevo l'esempio con Escaleria, che quando uscivano in strada negli anni 90, per esempio, l'esperienza della Calle Borrocca, c'erano sicuramente città intere che applaudivano determinate cose. E quando c'è un sostegno davanti a una condizione così dura e difficile, per uno Stato diventa davvero complicato gestirla. Una cosa è prendere il singolo nella sua azione individuale o collettiva, e una cosa è andare contro a un pensiero collettivo che sostiene tutto questo. Qualcun altro? Sono Enzo. Ci sono abbastanza argomenti, Elio. Cioè, allora, domanda brevissima in realtà. Qual è il caso più interessante che hai studiato di anti, cioè di pratiche di antiterrorismo che più ti ha intrigato, interessato? Perché? Altri? No, siamo risposti. Sì. Vai, devi parlare al microfono. Sì. Vale per tutti. Qual è la soluzione alternativa a quello che tu hai studiato, che hai pensato? Ma è un problema? No, sì, anche se... E, vabbè, allora inizio a rispondere, dai. Vado. Domande importanti. In realtà anche nel... Magari parto dalla... Da un po' quello che dicevi tu, allora, che poi si collega anche alla domanda su qual è il caso magari più un po' più interessante, la soluzione, quindi provo a tenere insieme un discorso unico. Allora, sulla continuità nella metodologia investigativa, poi di fatto sì, cioè questo è questa d'altro è una questione che, vabbè, ovviamente non scopro e non indago io per primo. Ovviamente c'è tutta una lunga tradizione anche di storiografia della continuità, che parte appunto da Claudio Pavone, insomma, che storico e partigiano, che è stato anche il primo poi a denunciare le continuità nello Stato. Ma poi negli anni, tu parlavi appunto anche di Davide Conti. Lui ad esempio ha scritto un libro molto bello che si chiama Gli uomini di Mussolini, che racconta perfettamente anche le biografie di tutta una serie di ufficiali dei carabinieri, della polizia di Stato, dell'Ovra e anche dell'esercito, di quello che era il SID poi dell'epoca, no? Cioè l'intelligence, i servizi segreti militari, che poi per la verità proseguiranno pressoché intatti, ecco, verranno mantenuti intatti nella Repubblica, e questo è un dato storico che spiega tantissime cose. Anche il fatto che stando proprio alla questione delle emergenze, di quelle che lo Stato considerava delle emergenze, la loro risoluzione viene affidata a chi aveva sostanzialmente sviluppato la propria carriera investigativa, professionale, quindi anche la propria cultura poliziesca all'interno di un regime autoritario, e in quanto tale, ad esempio, il fascismo, che era appunto un regime autoritario che alla metà degli anni 20, alla fine degli anni 20, aveva sostanzialmente sconfitto ogni dimensione di piazza, si doveva necessariamente confrontare con un'opposizione clandestina, no? E l'opposizione clandestina è per definizione un'opposizione che tu devi tirare fuori, che tu devi in qualche modo scoprire, rivelare, di cui devi scoprire anche il contesto sociale che ne permette appunto il sotterramento, l'entrata in clandestinità. In quanto tale, in qualche modo questa cosa rimane non soltanto per la gestione delle emergenze. Citavo il banditismo, ad esempio, ma poi sarà la lotta alla mafia durante la prima guerra di mafia nei primi anni 60, sarà appunto la lotta alla guerriglia, all'indipendentismo altoatesino negli anni 50 e 60. C'è un'idea che se c'è un fenomeno di insorgenza armata di qualunque tipo, che sia politica, criminale o altro, c'è un contesto che la sostiene. Il problema è questa cosa è un elemento proprio, no? di tutti gli apparati in qualche modo di intelligence. Il problema quando inizia? Il problema inizia nel momento in cui devi decidere qual è l'area di consenso. Qual è l'area di consenso, quali sono i sostenitori, i fiancheggiatori, i famosi fiancheggiatori potenziali, reali, dichiarati, sospettati tali, classificati come tali o meno. Perché ecco, questa cosa estende l'area di consenso in una sostanzialmente a discrezione anche di chi indaga. Ed è, io credo, anche il grande problema che c'è, ad esempio, nelle inchieste sull'autonomia operaia 7 aprile, ma anche ad esempio il meno noto 17 maggio, sempre del 79 a Genova, ma così come anche il processone Rosso Tobagi che si svolge qua a Milano. Il problema qual è? Che lì a un certo punto, a parte che ci si concentra su una lettura del fenomeno armato come unico, omogeneo, dove tutti sostanzialmente, tutte le varie forme dell'estremismo politico, della violenza politica, della illegalità diffusa, la violenza diffusa o della lotta armata clandestina erano sostanzialmente la stessa cosa. Due, che l'origine, che è una cosa storicamente falsa, non è vera. Due, che era un fenomeno di natura prettamente intellettuale e universitario, cioè la dimensione operaia, la dimensione diciamo dello scontro di classe, no? Che in qualche modo c'era nella lotta sociale, nella lotta armata, che è una delle forme estreme che assume il conflitto sociale radicato nelle questioni di lavoro e che inizia prima del 68 e si sviluppa nei lunghi anni 60 e nei lunghi anni 70 italiani. E quella dimensione è completamente eliminata. La figura del cattivo maestro, no? Che è Toni Negri, ma non soltanto, nasce lì, perché tu devi andare a dire sostanzialmente che la lotta armata la fanno sostanzialmente dei giovani traviati da borghesi estremisti. Questa è un po' la lettura. C'è quindi l'idea di eliminare, ecco, l'area di consenso, ed è una cosa che ad esempio fa sicuramente le leggi sui pentiti, che diventano pura discrezionalità, diventano pura arbitrarietà, che coinvolgono centinaia di persone che spesso anche che magari non hanno manco mai impugnato un'arma, ma che a un certo punto, per salvarsi dall'essere sotterrati da decenni di carcere, denunciano la qualunque. E questo, tra l'altro, è un fenomeno che poi si ripeterà anche in Tangentopoli, no? E in tutte poi le emergenze. Quello è sicuramente un elemento, cioè più che il deradicalizzare, secondo me è il desolidarizzare, cioè quello è il discorso che si fa nelle carceri, ma si fa anche nella società. Io su questo, ecco, non sono completamente d'accordo sul fatto che la lotta armata si esaurisce perché lo Stato interviene alla base. Io credo che a un certo punto la lotta armata effettivamente da un lato si esaurisca, da un lato è all'opposto, ovvero l'azione dello Stato funziona perché la lotta armata mostra tutti i suoi limiti e si disgrega internamente quell'area. E il dramma delle cosiddette campagne contro gli infami, ad esempio, mostrano proprio quello, è il trionfo della desolidarizzazione assieme alla denuncia dei propri compagni, sia dei propri compagni sia del proprio passato, per salvarsi. Questo da parte anche di chi non aveva fatto parte dei gruppi di lotta armata, ma veniva interpretato come area di contiguità e quindi in quanto tale era automaticamente, per la logica associativa, da reprimere. Sul caso, ecco, scusami, no, ecco, volevo dire, in questo c'è una grossa differenza, ad esempio, da, che so, la storia dell'ETA piuttosto che la storia dell'IRA, che sono lotte armate, fenomeni di resistenza estesa, anche che anche una storia, io credo, molto molto diversa, che spiegano anche la dimensione di massa molto più che magari il fenomeno lotta armatista da noi, che sicuramente però ha avuto una durata e un'estensione senza precedenti, ecco, per il tipo di caratterizzazione strettamente politica e rivoluzionaria in tutti, rispetto agli altri paesi europei. Cioè l'Italia ha avuto un numero di militanti sicuramente senza precedenti, ma ha avuto anche, per le leggi speciali, un numero di inquisiti, denunciati, detenuti senza precedenti, che superano addirittura il numero dei detenuti politici che c'erano nelle carceri fasciste durante il ventennio. E questo è, credo, una cosa che ci dovrebbe far ragionare. E sul caso, ad esempio, più interessante, prima lo accennavo, è ad esempio il caso 17 maggio, nel senso che nei vari blitz che si fanno nelle aree attorno, in questa idea che appunto, no, andiamo a colpire tutto ciò che secondo noi alimenta, crea, determina la lotta armata, quindi andiamo a colpire, e che in ultima istanza sono le Brigate Rosse, nell'ottica degli inquirenti, dei magistrati e così via, non c'è soltanto appunto il 7 aprile, che è quello più famoso, in cui appunto vengono, che poi sono diversi filoni di inchiesta in cui vengono sostanzialmente arrestati, spiccati, mandati di cattura verso oltre 100 complessivamente militanti di diverso tipo, prevalentemente dell'autonomia operaia, ma poi spesso anche gente che magari aveva smesso di fare militanza da diversi anni. C'è anche quest'altro caso, che è quello del 17 maggio del 79, che è conseguente di poco più di un mese al 7 aprile, e che se il 7 aprile viene gestito dalla polizia, il 17 maggio e si svolge prevalentemente a Padova, nel Veneto, nel nord Italia, diciamo, con anche una sua ramificazione a Roma, ma invece il 17 maggio è gestito dai carabinieri di Dalla Chiesa e avviene prevalentemente a Genova, perché a Genova c'era la cosiddetta colonna degli imprendibili, c'era la colonna delle Brigate Rosse, dove non erano mai riusciti a beccare qualcuno sostanzialmente, e che alla fine degli anni 70 era molto cresciuta di intensità in azioni. I carabinieri Dalla Chiesa, a un certo punto, su ordini Dalla Chiesa, che guidava appunto i nuclei speciali antiterrorismo, devono, di fronte all'azione spettacolare della polizia e del magistrato Pietro Calogero di Padova, che dicono: abbiamo sgominato il partito armato, abbiamo sgominato le BR, dicono: beh, noi siamo il nucleo speciale antiterrorismo, non possiamo non ottenere dei risultati di pari importanza, quindi dove lo possiamo fare? Lo facciamo nel luogo dove ottenere dei risultati sarebbe più importante, Genova, luogo della colonna degli imprendibili, dove sostanzialmente gli ufficiali del nucleo antiterrorismo dei carabinieri, guidati dall'allora colonnello Michele Riccio, sostanzialmente costruiscono una inchiesta da zero, costruiscono un caso da zero sulla base di due testimoni che sono appunto due donne inizialmente rimaste anonime, una tossicodipendente, l'altra che aveva avuto frequentazioni con un noto informatore dei servizi segreti, Enrico Mezzani, e dei carabinieri, che veniva tenuto a distanza da tutto diciamo, il movimento genovese. Costruiscono sostanzialmente un'accusa basata su due super testimoni che inventano di sana pianta tutta una serie di accuse, che però portano il 17 maggio a questo blitz, dove vengono sostanzialmente arrestati circa una trentina di noti esponenti dell'estrema sinistra nelle sue varie anime genovese, accusati di essere la colonna delle Brigate Rosse. Questo dà il via a una storia processuale molto travagliata e anche dolorosa, che porterà alla condanna sostanzialmente di tutta una serie di militanti che non erano brigatisti, erano in contrasto, in lotta anzi con i brigatisti, che si faranno diversi anni di carcere e che però otterranno il processo parte nell'80, l'ultimo grado di giudizio si ha nell'86, nel 93, quindi a distanza di molti anni, in particolare due militanti coinvolti in questa storiaccia, uno dei quali io ho intervistato all'interno del libro, che è Giorgio Moroni, che era uno dei leader dell'autonomia operaia genovese, decidono, perché emergono, riescono a rintracciare una delle due superteste che nel frattempo era stata fatta scappare in Australia dai carabinieri, mentre invece l'altra aveva già dichiarato, per la verità, nel corso degli anni 80, dei processi degli anni 80, che le sue dichiarazioni erano state confezionate di sana pianta dai carabinieri, ma questo non era valso a smontare, a far cadere tutto il castello di accuse, anzi la magistratura le aveva poi condannati comunque. però negli anni 90 rintracciano la seconda superteste che a quel punto fa una sua dichiarazione in cui racconta tutto quello che era successo, le minacce, le manipolazioni da parte dei carabinieri e alcuni dei condannati del 17 maggio ottengono e vincono un processo di revisione. Fu il primo processo di revisione su quegli anni vinto da parte rispetto a un caso di mala giustizia che furono di molti in quel periodo. Michele Riccio, che appunto era l'uomo di Dalla Chiesa a Genova, nel frattempo aveva fatto diverse altre cose, come soprattutto dopo la stagione antiterrorista ha la strada spianata nell'antimafia, e dove porta il suo metodo a disposizione di inchieste, ad esempio inventate, dove sostanzialmente viene costruito un traffico, viene sgominato un traffico d'armi che però gli stessi carabinieri di Riccio avevano contribuito a mettere in piedi. Nel 97 lui verrà condannato per invece un'azione di corruzione, anche di traffico di droga all'interno di questa sostanzialmente operazione in cui si andava ad attaccare il traffico di droga tra Genova, l'Italia, il resto d'Italia, la Francia e il Sud America, costruito dagli stessi carabinieri di Riccio, dove veniva fuori che sostanzialmente i carabinieri raffinavano droga che poi veniva portata nei luoghi dove avvenivano i blitz per alzare il numero di chili di droga ritrovata, e venivano d'accordo con i pezzi grossi del narcotraffico, invece arrestati tutta una serie di pesci piccoli, e per ringraziare i pezzi grossi del narcotraffico la droga veniva venduta e ridata a questi personaggi. Quindi l'antiterrorismo ha prodotto anche questi. Questo è il caso, diciamo, più eclatante. Michele Riccio, peraltro, sta per uscire con un suo libro in cui vuole raccontare la sua verità. Sarebbe da presentare, effettivamente. Assolutamente sì. E questo è il caso, diciamo, più... Ma non ho visto l'editore chi è, ma sarebbe interessante comunque, sì, il libro Verità di Michele Riccio. E rispetto invece alla soluzione, poi la soluzione rispetto a cosa? Domanda del fenomeno armato, tu dici, del fenomeno terroristico? Ma allora, qua poi è un dibattito, però diciamo che il tema è che sicuramente, ecco, da un punto di vista storico, e qua serve un po', cioè, l'intreccio della storia col presente, c'è il fatto che esiste sostanzialmente un tabù, no? Una rimozione e una condanna morale su tutto quello che è avvenuto nel periodo, ripeto, e nella storia non soltanto della lotta armata, ma anche in qualche modo dei fenomeni di violenza politica e in generale nella lunga storia della sinistra rivoluzionaria in Italia negli anni 70, dove la violenza non era elemento costitutivo, ma era parte sicuramente, tanto messa, come dire, della pratica politica e del conflitto politico, considerato non solo dalla sinistra ma in generale da tutto lo spettro politico. Il problema qual è? Che non c'è possibilità di riflessione e di discussione su quegli anni. Si è chiusa con, appunto, il fenomeno del pentitismo, fondamentalmente, dove non soltanto diciamo chi faceva parte di determinati gruppi denunciava tutti gli altri per avere agevolazioni di pena, ma il pentitismo significa sostanzialmente anche il pentirsi, il rinnegare tutta una legittimità e anche tutto un contesto storico in cui non solo la lotta armata ma anche le rivendicazioni e i movimenti rivoluzionari sono nati in Italia e hanno portato anche a un progresso sociale, sicuramente di diritti. Per allora sarebbe stato il famoso discorso sulla soluzione politica, come è avvenuto in altri contesti nazionali dove c'erano state grosse spaccature dovute a fenomeni di lotta armata interni, l'Irlanda, la Spagna, eccetera. Anche se pure lì fare i conti con fenomeni di lotta armata non è mai semplice per lo Stato, soprattutto se ne esce vincitore, e quindi non ci vede neanche il motivo per dover scendere in qualche modo, trovare un accordo, no, con gli sconfitti. Oggi sicuramente sarebbe il tempo in qualche modo di ridare dignità storica e quindi in qualche modo un po' io credo, comprendere quello che è avvenuto, no? Per non scadere soltanto nella condanna morale, ma riconoscere, ecco, anche le cause profonde dei fenomeni anche più estremi di conflitto, di cui la lotta armata è una delle forme, e che non sono nati, diciamo, a sinistra così dal nulla, dal colpo di testa di alcuni matti o dal condizionamento da parte dei cattivi maestri verso una gioventù estremista, ma che invece erano profondamente radicate anche nelle disuguaglianze sociali che poi questo paese ha sempre vissuto. E quindi su oggi io credo che poi sia di base provare a storicizzare, no? a dibattere, ecco, a superare un po' i tabù, e in questo la storia credo possa aiutare. C'è bisogno di prendere tempo, prendiamo un tempo, sennò andiamo a mangiare subito. Non so se c'è qualcuno che ci possa dire quanto manca a mangiare, vado a chiedere a voi. Sentirete una voce che urla, quanto manca la cena? No, non so se Max voleva dire qualcosa. Dunque, rapidamente, cioè in realtà lotta armata tipo BR e autonomia in realtà facevano capo a due ipotesi molto diverse, e la lotta armata di tipo brigatista finisce perché finisce in realtà il mondo a cui si riferiva, cioè finisce, cioè c'è il declino delle grandi fabbriche, c'è la ristrutturazione, è tendenzialmente quello che, cioè, se uno si legge il libro di Moretti è molto chiaro, lui, nel senso che dice già prima di Moro noi capivamo che quella fabbrica su cui noi incentravamo la nostra azione era una fabbrica che stava sparendo, era in ristrutturazione, cioè il massimo che potevi chiedere come rivendicazione a un certo punto è di cancellare i licenziamenti, di sospendere i licenziamenti, però potrai pure sospenderli per 6 mesi, ma 6 mesi dopo li licenziano. La fine è perché finisce quel finisce quel mondo. Sul fatto di farci i conti, secondo me è interessante vedere ad esempio il caso Moro, cioè perché continua a essere affrontato in maniera complottista. Cioè, sul caso Moro il complottismo è, diciamo così, tutti sono pronti a stigmatizzare il complottismo, uno dei pochi casi in cui invece è legittimo, anzi è quasi ufficiale e doveroso, è il caso Moro. Cioè, sono state fatte quante commissioni parlamentari sul caso Moro e in cui le ipotesi più bizzarre sono state messe in gioco. Ecco perché c'è questo accanimento sul fatto di presentare una visione complottista del caso Moro. Beh, uno è essenzialmente che cos'è, qual è la verità scabrosa che non si può ammettere. Uno, che Moro è stato sequestrato da chi? Da un tot di operai del nord e un tot di borgatari di Centocelle. Il caso Moro è questo: non ci sono i tedeschi, non ci sono i servizi segreti, non c'è la mafia, non ci sono ultimamente gli iraniani, non c'è il pianista Igor Markievich, che era un pianista russo che a un certo punto è stato accusato, attribuito di essere lui il capo delle BR, non mi ricordo più su quale base. Sì, essenzialmente è per negare quali erano quel tipo di radici. Ecco, successivamente l'altra cosa che è come in ambito liberal democratico alla fine ci sia quello che Carl Schmitt definiva il premio sopralegale per il possesso legale della forza. E come viene fatto giocare questo potere sovralegale per il possesso legale della forza? Tendenzialmente viene giocato in una sola direzione. Qua vediamo benissimo come viene giocato in una direzione e come non viene giocato in un'altra direzione. Per fare così, proprio siamo vicini alla cena, proprio chiacchiere da bar. La CIA, sappiamo tutti che era efficiente, erano in grado di agire. Non vi siete chiesti perché non hanno fermato Trump? Cioè, sti qua le cose le sanno fare, cioè, perché ci voleva molto se la democrazia americana, il deep state, i poteri forti, cioè, che l'avventura di Trump sarebbe finita male, si sapeva. Cioè, perché non se la minaccia fosse venuta invece da un'altra direzione, avrebbero lasciato fare? Ah, è una domanda, sì. Questa. Dove ti salvo io? Non per cambiare la risposta. Ah, pensavo avessi la risposta. Comunque, no, vabbè, ovviamente la risposta la do io, ma per ridere, ovviamente no. Cioè, chissà come mai ai nostri cortei ci picchiano sempre. Corte di qualcun altro non viene picchiato nessuno. Fine. Cioè, possiamo alzarci andare. Cioè, questo funziona così. Se sei veramente contro il sistema non vuole che tu esisti. Se evidentemente in qualche maniera qualcuno ci guadagna su di te, perché è con te o perché è contro di te, ma comunque ci guadagna, gli stai bene e gli rimani. No, io volevo fare questo tipo di considerazioni con Elio. Scoperta scioccante che mi è venuta mentre stava presentando questo libro. È il secondo libro che tu scrivi sugli anni 70, una passione un po' strana. Una cosa che obiettivamente, e questa cosa qua mi fa pensare, perché obiettivamente, cioè, la domanda che volevo farti un po' più generale era: qual è il tipo di attenzione che tu dai a questo periodo storico dell'Italia? E quella roba molto comune in chi frequenta spazi occupati, colletti di movimenti, quella marcord per cui che belli gli anni 70, l'avanguardia, i katanga, i servizi d'ordine, quando si sparava, le brigate rosse, cioè un sacco di gente che frequenta questi ambiti è proprio nerd di quelle cose, magari non è capace di sistemare una presa elettrica, ma ti sa dire l'ordine in cui Moretti ha scritto tutti i documenti politici, e dici: ma cosa ti serve esattamente nella vita? Il BR d'altronde. Quindi vabbè. Questa è la prima valutazione. La seconda valutazione che volevo fare era, un grande classicone che penso tutti quanti abbiamo letto, Asce di guerra di Wu Ming. Quando l'ho letto ho proprio aperto gli occhi su quello che hai detto a un certo punto anche tu. Cioè, banalità, il dirigente dei servizi segreti militari nel 65 era lo stesso dirigente magari del 42, che si era formato alla scuola ufficiali sotto il fascismo, quindi era stato per tutta la sua carriera professionale fascista, magari arruolato anche per spirito, perché poi nell'esercito non ci arrivavi perché eri monarchico, cioè ci arrivavi perché volevi fare quella roba lì, e che però era formalmente la persona che doveva gestire la raccolta di informazioni di intelligence per uno stato repubblicano, antifascista, eccetera. Cioè, non è vero, non era quella roba lì, era ancora un fascista. E quindi in tutto l'apparato dello Stato italiano c'erano gli stessi magistrati, pure i dirigenti della Celere, gli investigatori, i poliziotti, i responsabili delle questure, ovunque. E quella cosa lì, cioè, obiettivamente nelle scuole non si dice, forse nell'università si ne parla perché è verità documentata, però cioè, non è stata veramente una repubblica antifascista, non è nata così, perché si è tirata dentro tutto quello che non è cambiato nel passaggio tra il fascismo e il non fascismo, la repubblica teoricamente democratica. Questa cosa qua, vabbè, insomma, è da dire, da affermare, perché non c'è mai stata veramente la repubblica antifascista. Cioè, doveva finire negli anni 70 quello che è iniziato con la resistenza e che non è finito. Adesso, per tagliare corto, la soluzione che prima chiedeva lei probabilmente era vincere. Cioè, la soluzione era vincere quel momento che è stato quasi praticamente di rivoluzione armata. Anche lì, forse l'ho capito leggendo Insurrezione di Pino Tripodi, cioè a un certo punto nel 76 a Roma un corteo su due sparava. O anche, intanto qua abbiamo presentato quel libro che si chiama Tondini di ferro e bossoli di piombo, che aveva un'intestazione bellissima, che io ho litigato con chi di noi fa le pubblicità e la comunicazione. La quarta di copertina era: in Italia nel 77 erano attive 246 sigle armate, il che significa che ogni due giorni c'era un conflitto a fuoco in Italia. Era normale, non diceva così, quello diceva l'autore dopo la presentazione, era normale che il presidente del consiglio venisse rapito da un gruppo armato. Era normale, cioè nessuno era sorpreso, perché si respirava quella roba lì. La cosa folle è che nei 20 anni successivi è completamente sparito tutta la narrazione di tutto questo e non c'è mai stato niente. C'erano solo le BR, che era un gruppo di ragazzini universitari annoiati che si sono letti troppo Toni Negri e che si sono inventati di andare a sequestrare il presidente del consiglio, e ce l'hanno fatta mentre facevano le sedute spiritiche per trovarli con i professori di Bologna. Cioè, era una roba del genere. Vabbè, la narrazione che è stata fatta è una roba, invece no. Vabbè, quello che succedeva in Italia era una roba diversa. E l'ultima cosa, l'ultima cosa che stava dicendo giustamente Guareschi adesso, la follia per cui tutto questo si è perso, si è cancellato nel momento in cui, lo diceva sempre Matteo Albanese quando è venuto qui a presentare il suo libro, è stato riconosciuto a livello di storiografia che le BR sono state la prima organizzazione politica al mondo che ha utilizzato la parola globalizzazione in un volantino del 64, 68, non so, nel 72, nel 72 se non sbaglio, un volantino delle BR chiedeva il reintegro, o nel 74, il reintegro degli operai in fabbrica. Cioè erano passati dall'essere più avanti del capitalismo nell'analizzare i fenomeni capitalistici a chiedere il reintegro nell'inferno che avrebbero voluto demolire. Cioè, probabilmente, adesso non vorrei fare questa grande cosa così di provocatoria nei confronti di Elio, però il problema non è l'antiterrorismo, il problema non è la repressione, il problema è quando finisci le cartucce da sparare, battutona, quando finisci le cartucce da sparare a livello dell'analisi di quello che hai e di quello che vivi. Per cui se inizi a fare il lavoro da marcia indietro e non sei più nell'analisi intellettuale o della realtà, la propulsione per la tua classe, per fare in modo di conquistare qualcosa di più, ma stai praticamente chiedendo che continui il mondo che c'è adesso e che fa pure schifo, cioè sei lì che perdi, è lì che poi la base sociale scompare, non ti sostiene più, perché cioè, nel senso, un milione, tantissimi movimenti rivoluzionari nel mondo subiscono delle repressioni violentissime. C'è stato anche chi nella giungla con le cerbottane ha sparato alla gente con i carri armati e ha vinto, perché evidentemente riusciva a tenere insieme il proprio popolo molto più di quanto la repressione poteva fare, e avevano i caccia, avevano il napalm, avevano tutto. Sto parlando del Vietnam ovviamente, però vabbè, scusate, la divagazione totale. Però. Posso provare a rispondere? No, perché non so se... No, provo a rispondere velocemente, cioè sinteticamente. Allora, da un lato... Io inviterei comunque a considerare il fatto che il fatto che ci sono state grosse continuità nello Stato tra fascismo e Repubblica, e il fatto che soprattutto una certa idea, una certa concezione del conflitto sociale, ok, non come costitutiva dello sviluppo delle società o della storia o delle dinamiche della società, ma come invece elemento solo di ordine pubblico che di fatto è minaccia di disgregazione delle società, dello Stato e dell'ordine. Questo però non ci deve far fare l'errore di sottovalutare la portata storica invece della resistenza, nel senso che se non abbiamo avuto una diciamo continuità molto più conservatrice e molto più reazionaria, dove sostanzialmente si sarebbe passati dal liberalismo prefascista al dopoguerra senza soluzione di continuità, ok? Questo lo dobbiamo proprio alla resistenza. Nel senso che la resistenza italiana, la terza per dimensioni a livello europeo, dopo quella jugoslava e quella greca, è stato l'unico, per il momento, ingresso e l'unica azione delle masse nella vita decisionale e nella determinazione dei destini della nazione in Italia. L'unica. Con parole d'ordine e un programma politico progressista. Questo secondo me... che poi siano state depotenziati, siano stati sconfessati diciamo i propositi e i contenuti, ma neanche più rivoluzionari, ma anche quelli di maggiore riforma sociale e rottura con il fascismo, soprattutto dal punto di vista dell'ordine economico e sociale che il fascismo aveva tutelato e difeso. Questo però non ci deve portare a dire: se non c'è stata la rivoluzione, allora non c'è stata realmente una svolta o comunque una base antifascista nella Repubblica, perché quella c'è stata. È stata molto più estesa anche, anche grazie al fatto che, come dire, ha coinvolto anche soggetti sociali e politici che andavano oltre, oltre la sinistra. Questa è la prima considerazione. La seconda, il fatto che c'è una ossessione a sinistra, soprattutto nell'estrema sinistra, ma non solo, c'è un'ossessione in generale in questo paese per gli anni 70. Io una cosa che dico sempre è che noi siamo viviamo una come dire, un eccesso di memoria e una completa assenza di storia. Nel senso che questo è un paese che è ossessionato dalla memoria di che cosa? Delle vittime fondamentalmente e della criminalizzazione poi di chi viene considerato appunto soggetto negativo nella storia nazionale, ma non c'è storia, nel senso che noi abbiamo le memorie individuali delle vittime o dei parenti delle vittime, ma non abbiamo una contestualizzazione storica, non abbiamo una pedagogia pubblica, non abbiamo una didattica della storia, non abbiamo tutte quelle dimensioni che porterebbero le persone a familiarizzare con il proprio passato, cioè con il tempo in cui non eravamo nati o erano nati i nostri genitori, ma spesso poi chi vive i periodi storici non è che li capisce. Cioè noi probabilmente fra 40 anni sembreremo completamente sconclusionati a chi ci guarderà con distanza storica, perché molte cose che diciamo sul presente, le nostre analisi raffinate sul presente probabilmente appariranno molto strane a chi ci leggerà fra 40 anni o ci vedrà fra 40 anni. Questa è una cosa che secondo me dobbiamo tenere presente, perché c'è anche a sinistra questa ossessione. Se diciamo dal punto di vista istituzionale è appunto il dominio del paradigma della vittima, no? A sinistra è il reducismo, cioè questo essere in qualche modo ossessionati da biografie rivoluzionarie con il mito dell'assalto al cielo e così via. Secondo me questo non è utile, perché ci motiva, ci crea un immaginario, ok? Quindi non sto dicendo che è da buttare via, però è una cosa diversa, perché ad esempio io sul fatto che gli anni 70 siano stati una situazione rivoluzionaria, boh, non sono d'accordo, cioè secondo me non lo erano. Ad esempio, sono stati sicuramente un contesto pre-insurrezionale, se vogliamo usare questi termini così, queste categorie rigide, dove si spiega anche il perché ci sono state determinate pratiche, però non credo, ecco, che ci sia stata, che ecco il risolvere con abbiamo perso, bastava vincere, non lo so, cioè secondo me non è, le forme di lotta, come dire, sono forme di lotta, no? Non sono la rivoluzione in sé. Le forme di lotta si esauriscono storicamente, si determinano in determinati contesti, si possono riproporre in determinati altri, quindi non è che se l'hai fatto una volta hai perso, non lo puoi fare altre volte, però forse la cosa che ci manca, ecco, è effettivamente il capire il contesto storico in cui quelle cose sono successe e perché poi non siamo riusciti a superarle, ecco, perché poi l'ossessione della memoria, per fare psicologia spiccia, no? Anche a che fare con il mancato superamento di un trauma, e questo trauma è anche nostro e quindi forse dovremmo farci un po' i conti, ecco. Per concludere dico io, ti rispondo io per lui, perché scrive sugli anni 70. Scrivi tu una roba interessante sugli anni 2010 o scrivi tu un libro sugli anni 80 e... Sì, una roba sui girotondi, oppure scrivi una roba sugli anni 80 in cui viene qualcuno alla presentazione. Difficile, dici. Bene, grazie mille. Grazie a voi.